con Simone Perinelli delle Vie del Ful per parlare del debutto del nuovo spettacolo Yorick, un Amleto dal sottosuolo, di cui cura drammaturgia, regia e interpretazione al Teatro Era di Pontedera, 13 e 14 ottobre. Simone, ben trovato. Grazie, buongiorno. Un nuovo progetto, ce ne parli un po'? Sì, Yorick è il nostro nuovissimo progetto, progetto a cui teniamo molto e che sta per debuttare proprio in questi giorni. È una rivisitazione dell'Amleto da un altro punto di vista, cioè dal sotto, dal basso verso l'alto. Yorick, come sappiamo, è il teschio del buffone che Amleto ritrova nel cimitero, nel quinto atto del dramma shakespeariano, il buffone più famoso che conosciamo, perché tutti quando pensiamo a Shakespeare o all'Amleto lo rapportiamo subito all'immagine di un teschio. Pensavo fosse il caso di dare delle battute, di far dire qualcosa a questo teschio, e questa è stata l'idea principale che ha lanciato poi la costruzione della drammaturgia. Lo spettacolo è regno appunto del dramma di Shakespeare, quindi dell'Amleto, ma è lo spunto per diverse chiavi di lettura che noi siamo andati a sviluppare all'interno. Parliamo di follia, parliamo di morte, parliamo di potere psichiatrico, di psicanalisi, di psicologia, servendoci appunto dei personaggi e delle vicende che sono incise nell'Amleto. Parliamo di linee da non travalicare, quindi parliamo anche di quello che sta accadendo oggi nei mari, quello che conosciamo rispetto al discorso dei migranti e dei porti aperti o i porti chiusi, quindi diciamo anche uno sguardo sulla contemporaneità, sulla quotidianità di quello che sta accadendo, che è gravissimo, quello che sta accadendo appunto oggi nelle acque che bagnano la nostra patria. È uno spettacolo che rispetto al nostro percorso si colloca appunto in cima, perché c'è un grande allestimento, è vero, io sono solo in scena, ma è uno spettacolo fatto a più mani, perché c'è un grande apporto tecnico, è pieno di quadri dove andiamo a ricercare la bellezza di questo sottosuolo, sottosuolo che appunto durante lo spettacolo poi diviene il sotto del palco dove sta svolgendo l'Amleto sopra, l'Amleto ufficiale. Diviene il sottoterra perché Yorick è sepolto, ma diviene anche il sottosuolo di Dostoevskij e diviene soprattutto il sottosuolo cioè l'inconscio, cioè quello che non è visibile alla luce del sole, quindi alla luce della ragione, che è sempre su. E le domande principali che ci poniamo appunto è se la ragione, cioè se il sopra può veramente scandagliare del tutto il fondo e se questo inconscio che noi mettiamo in scena nel sottosuolo si presta veramente, diciamo, anche al pensiero che era quello di Freud, no? Di dire lì dove c'era l'est deve subentrare l'io, cioè quest'opera di conquista dell'inconscio, dell'animo, della parte discreta di noi. La domanda che ci porgiamo è, diciamo, può veramente l'anima essere scandagliata a fondo come gli abissi? Che percorso ha fatto dall'idea iniziale, Simone? Raccontaci un po' com'è nato tutto. Partito appunto da questa mia idea, dopodiché diciamo c'è stata una fase di scrittura lunga, anche travagliata, nel senso che quello che poi facciamo è molto difficile, no? È molto difficile far chiudere poi il cerchio con tutti i sensi, perché dentro Yorick c'è di tutto, a livello di significati, di simbolo, di argomenti e di temi. E quindi una lunga fase travagliata della scrittura durata diciamo tra i 6 mesi, 7 mesi, dopodiché abbiamo iniziato a metterlo sul palco. Per fortuna il palco, il teatro, rimane sempre un grande termometro, no? Dove possiamo liberarci invece della letteratura, quindi il copione, il testo, tutta la drammaturgia si è spogliata di tanti fardelli, dopodiché siamo arrivati all'essenziale che è il teatro. E dopodiché questa è la prima volta che lavoriamo con una sola sessione lunga di lavoro, di solito facciamo delle residenze creative sparse, no? Sia geograficamente sia cronologicamente, per poi fa, abbiamo curato, stiamo ancora facendo delle prove generali, prove aperte, insomma così per arrivare poi al 13, a sabato. Comincerà un suo percorso in questa stagione, poi? Allora sì, diciamo che per il momento c'è un piccolo percorso, che è questo appunto dopo il debutto, ci sarà il teatro studio di Scandicci e poi a Roma al Teatro India per teatri di vetro il 18 dicembre in sala dell'India a Roma. Poi ci sono altre, diciamo, appuntamenti, altri appuntamenti, ma sono in via di definizione. Per il momento insomma ci atteniamo su quello che c'è. Ok, ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Dunque, la nostra compagnia, Le Vie del Ful, sul web siamo presenti come www.levieldelful.com. Abbiamo una nostra pagina Facebook, c'è il sito del Teatro Era, dove ci sono tutti i riferimenti e anche, diciamo, le modalità di prenotazione dei biglietti, per queste due date. Bene. Allora, Yorick, un Amleto dal sottosuolo, Le Vie del Ful con Simone Perinelli, che ne è autore, attore e regista, al Teatro Era di Pontedera, 13 e 14 ottobre. Simone, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo, è stato sempre un piacere come sempre. Ciao, A presto, alla prossima. ciao, alla prossima, ciao. Ciao.